Do il benvenuto a Magda Tesfau, la traduttrice di Memorie della Piantagione, episodi di razzismo quotidiano. Benvenuta ai microfoni di Radio Città Fugico. Grazie, buongiorno a tutte e grazie di avermi qui. Allora Magda, innanzitutto ti chiedo se ti va di raccontarci qualcosa di più sul libro, quindi di che cosa parla Memorie della Piantagione per chi non lo conoscesse. Allora, grazie. Memorie della Piantagione è un libro che è stato inizialmente pubblicato nel 2008 di questa autrice, Grave Chilomba, che oltre ad essere una psicologa, è un artista interdisciplinare. Questo libro raccoglie la ricerca di dottorato di Grada, che si è svolta attraverso interviste a giovani donne afro-tedesche, afrodiscendenti europee, che parlano insomma, della loro vita e degli episodi di razzismo quotidiano e delle manifestazioni di questo razzismo nelle esperienze singole, nelle loro storie di vita. E quindi, insomma, è un'analisi di una serie di racconti che non sono testimonianze, ma sono la parola che utilizza in inglese Grada è account, resoconti come dei dati qualitativi rispetto alla realtà del razzismo e delle sue manifestazioni nel quotidiano. Questo libro è stato appunto editato ora dalla casa editrice Capovolte e tu hai curato la traduzione, ma in realtà è stata una traduzione a più mani e quindi ti volevo chiedere come è avvenuto questo processo. Certo, allora io ho co-tradotto questo testo con Marie Moise, che oltre ad essere insomma una traduttrice ormai, è una cara amica che si occupa anche lei di femminismo intersezionale e insomma di ricerca di filosofia politica attorno ai temi della razzializzazione. Diciamo che siamo state contente di poter lavorare assieme. Abbiamo suddiviso il testo e i capitoli inizialmente in base alle nostre competenze specifiche, insomma, e in realtà abbiamo anche diviso un pochino la traduzione in un primo momento in base alle cose che più ci toccavano direttamente, diciamo, e poi sì, in un secondo momento abbiamo scambiato i capitoli in modo da poter avere uno sguardo complessivo sul lavoro vicendevole e sull'opera di Grada. Diciamo che la cosa che ci ha preso più tempo ed energie è stato tentare di capire come rendere una terminologia che in italiano spesso non ha ancora una traduzione univoca e sedimentata, termini come nero con la N maiuscola, l'insulto, la N-word che noi chiamiamo nero con la G o N puntato come nel testo su spinta di Chilomba, la parola di colore che in un calcolo all'inglese mi sembrerebbe poter comprendere tutte le persone non bianche e insomma così la utilizziamo, ma che nel contesto italiano insomma riporta a un modo di parlare di nerezza che oggi è ritenuto no, non corretto, ecco. Quindi insomma c'è stato un lavoro terminologico importante. Proprio per questo lavoro che ci stavi raccontando avete inserito un vero e proprio glossario delle parole, no? Per spiegare la scelta e il posizionamento che avete avuto nella traduzione di questo libro. Tra l'altro, nella traduzione introducete anche l'utilizzo della schwa. Ci puoi raccontare queste scelte? Sì, anche qui è stato una grande negoziazione perché, beh, innanzitutto il glossario iniziale era imprescindibile. Questo testo è stato inizialmente scritto e pubblicato in inglese, ma Quilomba è anche madrelingua portoghese e lei ha curato l'introduzione alla traduzione in portoghese, in cui ha spiegato le difficoltà in cui è in corso a tradurre una serie di riflessioni in un linguaggio come il portoghese, che come l'italiano non contempla una forma neutra, insomma, porta a delle forti tracce patriarcali al suo interno, non che l'inglese non lo abbia, però quantomeno appunto c'è questa declinazione neutra che è spesso di aiuto. Noi quindi abbiamo in una lunga, lunga discussione con Grada aggiustato questa sua introduzione all'edizione portoghese e riproposto un'introduzione all'edizione italiana in cui le nostre note sono andate ad integrare il dialogo che abbiamo avuto con lei. Grava è stata molto entusiasta della nostra idea di utilizzare la schwa proprio perché in qualche modo tiene viva la riflessione, questa scelta tiene viva la riflessione del libro che denunciava l'assenza di un modo per uscire dal binarismo di genere. Con il linguaggio nelle lingue neolatine. E quindi siamo state felici di poter adottare la schwa. Inizialmente io, che sono un po' una fondamentalista, volevo anche che ci fosse la versione lunga per il plurale. Alla fine abbiamo optato per una schwa generica, dato che comunque può essere ostico, primo momento, adattarsi anche nella lettura a un carattere che, insomma, che è nuovo. Per molte di noi. Quindi sì, abbiamo adottato la schwa e non l'abbiamo adottata solo nella declinazione dei termini, ma abbiamo anche deciso di rendere parole come alt e soggetto con la schwa proprio perché, pur essendo dei termini singolari passati per neutro, neutri, in realtà insomma soggetto, il fatto che il soggetto sia maschile ha un'implicazione evidente che nega insomma l'individualità e la soggettività femminile e non binaria, e lo stesso si può dire per la parola altro che non contempla poi invece quella che è l'alterità assoluta che è quella della donna, soprattutto quando è razzializzata. Quindi abbiamo utilizzato la schwa anche per queste parole. Io Magda ti ringrazio per averci raccontato da più vicino la traduzione che avete fatto su questo libro Memorie della Piantagione e ricordo che è acquistabile nella collana Intersezioni di Capovolte. Grazie ancora Magda, veramente. Grazie a voi e una buona giornata a tutte.